America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Buona vigilia di Natale, siamo arrivati al 24 dicembre e siamo arrivati a una giornata molto particolare, perché per tradizione il 24 dicembre, ma anche il 25, cioè domani, le grandi case cinematografiche americane rilasciano alcuni dei loro più importanti film dell'anno. E la gente cosa fa a Natale? Beh, sta a casa, sta in famiglia e cosa fa? Si va al cinema. Cosa devo dire che farò anch'io domani con la famiglia e con degli amici. Subito dopo il pranzo natalizio l'appuntamento fisso è quello di andare al cinema, e ci saranno i più grandi incassi dei botteghini in queste giornate. Anche per questo i release, film e Natale dunque vanno a braccetto. Sentiamo un film che sarà nelle sale americane proprio oggi. You wish to have the curse reversed? I'll need a certain potion first. Go to the wood and bring me back one, the cow as white as milk, two, the cape as red as blood, three, the hair as yellow as corn, four, the slipper as pure as gold. Meryl Streep, grandissima attrice, il film è Into the Woods. Into the Woods è una produzione di Walt Disney, ma è una produzione, diciamo così, un po' dark, con un lato oscuro. Io di questo film, ma anche degli altri film che stanno uscendo in questi giorni, e alcuni dei quali saranno protagonisti degli Oscar, voglio parlarne con Antonio Monda. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, Antonio, ve lo ricordo, professore di cinema a NYU, giornalista e organizzatore di festival, insomma, uomo di grandi talenti della cultura, per la cultura nel senso più lato del termine. Ecco, Antonio, allora, Into the Woods, voglio sentire prima la tua opinione, perché è un film che sia io che te abbiamo potuto vedere in anteprima e quindi possiamo avere dei pareri forse discordanti, non lo so. Cosa ti ha colpito di questo film? È un film che colpisce perché va un po' fuori tema e fuori tono rispetto a quello che Disney generalmente propone. È un film molto cupo, molto pieno di atmosfere che tendono appunto al dark. Proviene, come sai, da un grande musical che ha vinto tutti i premi Tony di Stephen Sondheim, e anzi per il cinema è stato addirittura addolcito perché era perfino più cupo. È un film che ha avuto moltissime avventure e disavventure, perché pensa che si tentò di farne una prima versione già all'inizio degli anni 90 con un cast completamente diversa. Adesso c'è, come hai ricordato, Mary Streep nel ruolo della strega, ma doveva farlo Cher. Nel ruolo del The Baker, il fornaio, doveva esserci Robin Williams, doveva esserci Goldie Hawn. Insomma, non si riuscì a montare, nonostante ci fossero tante star di prima grandezza, questo film negli anni 90. Si riesce adesso per due motivi: prima, perché ha accettato forse la più grande star americana, appunto Mary Streep, e insieme a lei Johnny Depp, un'altra star di assoluta grandezza, ma soprattutto perché il film è stato addolciso, reso relativamente più natalizio, più family oriented. Dico, ecco, relativamente rispetto a Disney non lo è per niente. Esattamente. E devo dire, allora, premessa, qui mi brucia un po' la lingua perché io vorrei dire che cos'è, però non voglio anche rovinare la sorpresa ai nostri ascoltatori. Però c'è un episodio in particolare fra i tanti che, diciamo, non è tradizionalmente romantico, bello, sognatore, il principe, la bella, eccetera, come normalmente siamo abituati a vedere in un film di Disney che ci prende per mano e per un po' ci porta fuori dai dolori del giorno per giorno e ci consente di sognare. Cosa che devo dirti, Antonio, a me ha irritato un pochino, a te su una reazione a caldo su questo. Guarda, aspetto io non cupo sono di così caldo come sei tu in genere assoluto sul film, pur rispettando moltissimo il lavoro della Streep, di Depp e di tutti gli altri coinvolti, ma in assoluto, finché non mi ha convinto, non è tanto questo elemento che sottolinei. Ecco, però raccontiamo due cose. La prima, la storia, perché è una storia che tiene insieme un po' tutte le fiabe. fiabe. Sì, che è la grande invenzione di Sondheim, mettere insieme, non so, Cenerentola e insomma un po' dei fratelli Cetto Grimm, Rosso, esatto. Cappuccetto Rosso, eccetera, eccetera. E questa la scommessa, con delle musiche molto molto belle, fare un musical di tutti i musical, fare una fiaba di tutte le fiabe, questa è l'invenzione. Esattamente, tutti i personaggi poi si ritrovano, personaggi di fiabe diverse si ritrovano insieme. Ma dimmi una cosa, perché secondo te Disney alla fine ha accettato, perché avrebbe potuto farlo qualunque altra casa di produzione, ma l'ha fatto Disney, e perché Disney ha accettato di andare in fondo così controcorrente rispetto a quella che era una regola doc della casa? Allora, ha accettato perché solo la Disney fa questo tipo di operazioni musicali, però è andato controcorrente perché sono i tempi in cui viviamo, perché proporre oggi il lieto fine classico verrebbe rifiutato da una generazione giovane sempre più smaliziata, che vuole quasi godere al vedere il finale disturbing, come dicono qui, che inquieta. Infatti devo farti una confessione, forse un po' privata, forse non interessa ai nostri ascoltatori, ma in effetti io ho visto quest'anteprima con mia figlia e davanti alla mia reazione lei ha detto: ma papà, ma non hai capito niente, è chiaro che quello è tutto una costruzione per prendere in giro questi vecchi valori romantici. Ha ragione Disney. Capito che l'età di tua figlia e tutti i suoi coetanei vogliono queste cose qua. Ecco, un altro film, lanciamo un altro film che hai visto e che ti è piaciuto. Beh, a me è piaciuto molto American Sniper di Clint Eastwood. Ecco, American Sniper, sentiamo. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out moving towards the convoy. Her arms aren't swinging, she's carrying something. Yeah, she's got a grenade, she's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. Your call. Perché ti è piaciuto molto, Antonio? Allora, la fattura è eccellente. Se poi pensiamo che Clint Eastwood ha 84 anni, è impressionante come sia riuscito a dirigere un film del genere. Poi è un film che ti disturba, che inquieta, perché è la celebrazione, fino a renderlo un eroe, di un cecchino, di un uomo il cui talento era quello di uccidere. È un uomo che ha ucciso 160 persone ed è considerato una leggenda se non un eroe. Poi ovviamente Eastwood sposa fino in fondo il punto di vista di questa persona, che si chiamava Chris Wilk, che poi è morto tragicamente non in Iraq dove ha combattuto, ma in America, non voglio svelare troppo, ma racconta perché un uomo va in Iraq e diventa un cecchino. Ecco, non sembrerebbe un film, come dire, propriamente natalizio. Non lo è per niente, Antonio, è di nuovo un po' un sintomo del nostro tempo, delle preoccupazioni. Assolutamente, va nella stessa direzione che dicevi tu. È un film che si candiderà agli Oscar, che farà discutere, vedrai che la sinistra, i liberal lo attaccheranno, ma su questa cupezza, su questo mondo così dark, ti invito a parlare anche, a vedere, se non l'hai già fatto, Foxcatcher, un altro film di una tristezza assoluta, ma di eccellente qualità. Assolutamente. Sentiamo un attimo, se abbiamo ancora qualche minuto, Foxcatcher, Steve Carell. Mark, you have been living in your brother's shadow your entire life. It's your time, now. I promise you, I'll give you everything I have. Ecco, molto rapidamente, perché siamo in chiusura, Antonio. Ecco, qui vediamo Steve Carell, attore comico, in un'interpretazione ultra drammatica, un miliardario che cerca di controllare certe immagini americane. Una storia vera, DuPont. Ecco, Steve Carell, che da attore comico diventa attore drammatico, vuol dire un'interpretazione straordinaria. Perché? Sono d'accordo che è un'interpretazione straordinaria, ma non è una novità. Molto spesso abbiamo visto dei comici dare il meglio di sé in ruoli drammatici, ma è successo anche in Italia con Totò, delle volte. Ma per rimanere in America, Robin Williams, quando ha interpretato La leggenda del re pescatore o altri ruoli drammatici, Good Will Hunting ha dato il meglio di sé. E la nostra rigidità a vedere gli schemi interpretativi, che non ci fa capire se sono grandi attori o pessimi attori. Un grande attore che fa il comico può essere anche un grande attore drammatico. Ecco, resta però il denominatore di fondo di un Natale, come dire, un po' dark. Perché, Antonio? Beh, lo abbiamo visto Ferguson, abbiamo visto di tutto, ma questi film sono stati preparati molto prima che ci trovassimo con le tragedie dell'ISIL e delle gole tagliate. Perché? Come mai? Di un periodo che ormai va avanti da anni di incertezze, di mancanza di punti di riferimento, di delusioni continue, di crollo di valori, di recessione dalla quale l'America sta uscendo. Cioè, il quadro generale è terribile. È vero quello che dici tu, ISIS, Ferguson, sono fenomeni relativamente recenti, ma i semi di quei fenomeni c'erano già prima. Il cinema, come sappiamo bene, è in grado da sempre di interpretare, anticipare quasi in maniera profetica il sentimento di un paese. È un paese ancora incerto che non riesce a uscire dalla propria crisi e il cinema ne rappresenta il lato più oscuro oggi. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Buon Natale!